Conto alla rovescia. Bentornati a Conto alla rovescia, un saluto da Gigi Donelli. 10 settimane fa abbiamo cominciato insieme un viaggio nello spazio italiano. Vi abbiamo raccontato persone e luoghi che pongono il nostro paese in una posizione di assoluto rilievo nel campo della ricerca e della produzione per il settore aerospaziale. Oggi andiamo in Toscana. A Livorno facciamo tappa alla Kaiser di Valfredo Zolesi. La nostra azienda, che è nata nel 1986, è dedicata alla realizzazione di esperimenti, alla loro messa in orbita, all'analisi dei dati e tutto ciò che ne consegue. Ecco, ma come ha cominciato a occuparsi di spazio? Personalmente ho cominciato a occuparmi di spazio dopo essermi laureato a Pisa in ingegneria elettronica nel 1974, poi sono andato negli Stati Uniti, ho fatto alcune specializzazioni, in particolare in alcuni ambienti e settori spaziali, e poi niente, nell'86 ho fondato questa azienda assieme alla Kaiser tedesca, dopodiché nel 95 ho rilevato le quote tedesche e quindi da allora siamo italiani al 100%. C'è spazio per la piccola e media impresa in questo settore? Ma sicuramente c'è spazio e anche uno spazio importante. La piccola e media impresa ha una elasticità e una dinamicità e ovviamente anche dei costi che sono particolarmente appetibili per la realizzazione di esperimenti spaziali. Qual è, diciamo, una cosa che le è particolarmente cara, di cui è orgoglioso? Dunque, ogni missione, noi abbiamo fatto fino ad oggi 42 missioni spaziali, che per una piccola e media impresa è un record assoluto. Ogni volta direi un'esperienza diversa, che sia un lancio da Plesetsk al nord della Russia o da Baikonur o da Cape Kennedy, ogni esperienza è un'esperienza che ti coinvolge. Quello che mi colpisce di più è l'attenzione e la preparazione degli ingegneri e dei tecnici che lavorano qui, lo fanno con passione. L'Agenzia Spaziale Italiana chiede aiuto ai bambini. Ci vuole la loro fantasia per dare un nome e un simbolo alla missione STS-134 dello Shuttle Discovery, che l'anno prossimo porterà in orbita l'astronauta Roberto Vittori. Attenzione, i primi 4 andranno a Cape Canaveral ad assistere al lancio e vi assicuro che lo spettacolo è mozzafiato. Ma attenzione, regole da leggere su www.asi.it e scadenza tassativa 11 gennaio. Restiamo dunque in zona stazione spaziale, mentre lo shuttle si avvia agli ultimi lanci, Europa e Giappone stanno studiando la possibilità di rifornire autonomamente la stazione, una misura che ridurrebbe la dipendenza dai voli americani e russi e che la stessa NASA suggerisce nel suo ultimo rapporto. Spazzatura spaziale in volo a poca distanza dalla stazione orbitale. Nessun rischio, ma l'abituale allerta. Sono infatti 9.000, pensate, gli oggetti e i satelliti che orbitano intorno al nostro pianeta, ma solo 900 di questi sono ancora integri. È un pericolo reale. Vi ricordo, nel febbraio del 2009, la collisione tra 2 satelliti, uno russo, uno americano. E ora parliamo di terraformazione. Terraforming in inglese, un processo artificiale teso a rendere abitabile per l'uomo un pianeta intervenendo sulla sua atmosfera. Carlo Ferri ne ha parlato con Enrico Flamini, direttore dell'unità di osservazione dell'universo dell'Agenzia Spaziale Europea. Terraformare vuol dire utilizzare le risorse presenti su un corpo solido del sistema solare per ricreare un ambiente adatto alla vita per l'uomo, in particolare a creare la presenza di acqua allo stato liquido e di un'atmosfera respirabile. Ora che abbiamo trovato acqua fuori dalla Terra, possiamo pensare di costruire una base sulla Luna o su Marte? Per quanto riguarda la Luna, le condizioni comunque di acqua che sono presenti non sono sufficienti a pensare di poterla utilizzare per una base, sono molto poche, e comunque sulla Luna non sarà mai possibile realizzare un'atmosfera. Per quanto riguarda Marte, l'acqua ce n'è a sufficienza per poter avere anche ampie superfici di acqua. È pensabile avere un'atmosfera, ma non riusciremo mai a evitare che la radiazione cosmica, non frenata dal campo magnetico che è assente su Marte, colpisca la superficie. Siamo in conclusione, vi ricordo solamente un lancio prenatalizio da Baikonur, la navicella russa TMA-17 parte il 20 dicembre alla volta della stazione internazionale. A bordo un cambio di equipaggio per tutti i primi mesi del 2010. Con questo è davvero tutto, un saluto da Gigi Donelli e vi ricordo come sempre radio24.it per risentire le nostre trasmissioni. Un saluto. 3, 2, 1. We have ignition.